Let's watch. The key to victory on this cool course is patience. But as you know, only patience is not enough to win. Sì, vivi qui in balia dell'avenir. Scrivi ormai per tic, forma stile ogni tuo beat. Sì, l'avvenir, chi sta, chi va, chi resta qui. Chi non ritorna più, chi scappa senza tappami. Si sta pambirre in onore del calore che ci hai dato. Stile e colore in ogni pezzo che hai lasciato. Sì, un quadro astratto, di vite con lo sfratto. Ma sei costretto a ricordare tutto ciò che è stato. Sì, è l'avvenir, chi sta, chi va, chi resta qui. E nulla mai si sa, si sa è così. È l'avvenir, si sa che si progetta e ci si aspetta che già sia così. L'avvenir, boh, io non lo so, no, come va a venire, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, boh, io non lo so, no, come va a venire, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, boh, io non lo so, no, come va a venire, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, boh, io non lo so, no, come va a venire, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, boh, io non lo so, no, come va a venire, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, boh, io non lo so, no, come va a venire, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, io creo atmosfere, scio tra i monti del sapere. Qui si viola il tempo, leggo sfere di un futuro prossimo, dove fossimo liberi col massimo dell'uso lessico parossistico, paradosso avveniristico. Se m'assisti inizio a fare il rap scientifico. Sentimi, compete fare questo. Mi riconoscete per il gusto con cui vesto l'onesto concetto che espleto lesto. Con quello, con questo, non conosco arresto. Io manifesto un rigurgito indigesto. Il palinsesto che subito pretesto. L'avvenir, boh, io non lo so, no, come va a venire, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, boh, io non lo so, no, come va a venire, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, boh, io non lo so, no, come va a venire, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, boh, io non lo so, no, come va a venire, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, boh, io non lo so, no, come va a venire, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, boh, io non lo so, no, l'avvenir, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, sì, è l'avvenir, chi sta, chi va, chi resta qui. Chi resta affezionato a questo posto e qua ci vuol morire. È l'avvenir, chi vuol partir, vuol fuggir, monta un tir, sì. Rimbocca le maniche, blocca le solite giornate cicliche. Vola su un'azione che aspettano, ma prospettano, no. Ma non lo so, solamente so che viaggerò, se potrò, e porterò la conoscenza insieme a me. Mi sa che avrò la scelta nei biglietti di un carnet. Si tratta se, mi gratta sempre la fortuna. Imbrata le mie scarpe sulla via, se l'avvenir, si buona, boh, buona. Non lo so, no, come va a finire, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, boh, non lo so, no, come va a finire, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, boh, io non lo so, no, come va a finire, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, boh, io non lo so, no, come va a finire, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, boh, io non lo so, no, come va a finire, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, boh, io non lo so, no, come va a finire, boh, dell'avvenir non so. L'avvenir, l'avvenir, l'avvenir, l'avvenir, l'avvenir.